La storia e la memoria di Dino Pesole e Alessandra Scaglioni. Buona serata e ben ritrovati ad un nuovo appuntamento con La storia e la memoria. Il giorno del ricordo, celebrato lo scorso 10 febbraio, ci offre l'occasione per approfondire il tema delle foibe istriane. Dino Pesole ne discute oggi con Raul Pupo, docente di storia contemporanea all'Università di Trieste. Nella seconda parte vi proponiamo in collaborazione con History Channel un radiodocumentario sulla lotta per l'indipendenza del Tibet. Basovizza opicina prosecco volci, crucivizza aurisina, ternovizza. Tutte località che evocano un tragico percorso di morte, quello delle foibe istriane, e vale a dire delle migliaia di italiani uccisi per rappresaglia dai partigiani di Tito tra il 1943 e il 1945. Vicenda che, come sappiamo, ha alimentato per decenni accese polemiche, strumentalizzazioni politiche, tentazioni revisioniste e letture spesso discutibili. Vicende sulle quali tuttora si fa fatica ad affermare quantomeno la verità inoppugnabile dei fatti. Sabato scorso vi è già stato proposto un documentario all'interno della storia della memoria sulle foibe istriane. Oggi ritorniamo sulla questione con un approfondimento e ascoltiamo prima di tutto quel che sulle foibe ha detto il 10 febbraio il presidente Napolitano. Il giorno del ricordo voluto dal Parlamento ha corrisposto all'esigenza di un riconoscimento umano e istituzionale già per troppo tempo mancato e giustamente sollecitato. Esso non ha nulla a che vedere col revisionismo storico, col revanchismo o col nazionalismo. La memoria che coltiviamo innanzitutto è quella della dura esperienza del fascismo, ma non possiamo certo dimenticare le sofferenze fino a un'orribile morte inflitte a italiani assolutamente immuni da ogni colpa. E non possiamo non sentirci vicini a quanti hanno sofferto comunque di uno sradicamento a cui è giusto che si ponga riparo. Quel che è certo è che le ferite sono ancora aperte in quei luoghi del confine nord-orientale che fu teatro 60 anni fa di scontri e dure repressioni. Prima quella sorta di pulizia etnica ante litteram messa in atto da Mussolini contro le popolazioni slovene e croate. Poi le migliaia di morti gettate nelle foibe dai partigiani comunisti di Tito, oppure uccisi nei campi di prigionia in Slovenia, Croazia e Serbia. Infine lo sterminio di almeno 3.000 persone ad opera dei nazisti nella risiera di San Sabba. Le foibe sono delle cavità tipiche del paesaggio carsico. Oltre 1.700 voragini che si estendono in profondità nelle viscere della terra, accanto a cunicoli, grotte, acque che scorrono tra tortuosi e profondi meandri. Qui, alla fine della Seconda Guerra Mondiale, vennero gettati migliaia di cadaveri di cittadini italiani eliminati dall'esercito di liberazione jugoslavo del maresciallo Tito. Agli infoibati, cioè coloro che furono gettati negli inghiottitoi carsici e che non vennero sempre recuperati, vanno aggiunti i prigionieri deceduti nei campi di concentramento della Slovenia e della Croazia. Una quantificazione esatta delle vittime è impossibile. La scientificamente più credibile si attesta attorno alle 4-5.000 vittime, cui vanno aggiunte quelle di nazionalità slava. Per avere tuttavia una più chiara percezione di quel che furono le foibe istriane, occorre dividere almeno i due periodi: quello dell'occupazione fascista fino ai giorni successivi all'8 settembre del 43 e quello che contrassegnò l'occupazione jugoslava. Nel ventennio fascista Mussolini mette in atto una politica di italianizzazione forzata nell'Istria e nelle aree del confine orientale. Le comunità slovena e croata perdono la loro nazionalità. Di fronte a una razza inferiore e barbara come la slava non si deve seguire la politica dello zuccherino, ma quella del bastone, afferma il Duce. Si vieta l'uso di lingue che non siano l'italiano. Vengono italianizzati i cognomi. Le organizzazioni ricreative e culturali slovene e croate vengono soppresse e i loro beni confiscati. Gli insegnanti delle scuole devono essere italiani. I sacerdoti slavi vengono aggrediti. Le canoniche devastate. Vengono sciolte le leghe delle cooperative di Gorizia e di Trieste. I contadini sono costretti a lasciare le loro terre, a vendere a prezzo bassissimo il bestiame. I tribunali speciali lavorano a pieno regime, comminando pene di morte e di ergastolo. Da un lato i fascisti, dall'altro la politica espansionistica di Tito e l'ambizione di annettere alla nuova Jugoslavia comunista non solo la Dalmazia e l'Istria, ma anche Trieste e il Goriziano. Cade infine il fascismo e scattano le vendette. Fascisti, parafascisti, insegnanti, funzionari comunali vengono legati con il fil di ferro l'uno all'altro, si spara sul primo che, cadendo nella foiba, trascina anche gli altri. Il tutto avviene nel maggio-giugno del 45, quando le forze partigiane e titoiste occupano Trieste prima dell'arrivo degli anglo-americani e stabiliscono su tutto il territorio proprie autorità amministrative. Si scatena una brutale repressione. L'ondata degli infoibamenti, delle fucilazioni, deportazioni si fa sempre più intensa. Non è contro i fascisti o contro gli italiani o contro i comunisti, e contro tutti coloro che si oppongono all'annessione. Abbiamo in linea il professor Raul Pupo, che è docente di storia contemporanea all'Università di Trieste. È possibile, professore, finalmente a oltre 60 anni da questi tragici fatti, stabilire cosa avvenne, soprattutto nel 1945? Certo che sì. Oramai la ricerca storiografica, non dico che ha concluso il suo lavoro perché non è concluso mai, però è arrivata a conclusioni mai molto attendibili, largamente condivise. I problemi semmai sono da un'altra parte, stanno nella memoria, che come lei sa le memorie sono soggettive e quindi molto divise, ma a livello di analisi storica no, non ci sono più grossi problemi. Sul numero dei morti delle foibe c'è stato un balletto delle cifre? Sì, quello è estremamente difficile, non lo sapremo mai con esattezza perché molti documenti non ci sono, sono andati perduti. Sappiamo più o meno l'ordine di grandezza di alcune migliaia, intendendo sempre vittime delle foibe, ovviamente non soltanto tutti quelli che sono finiti in fondo ad una voragine, ma tutte le vittime delle violenze di massa che ci sono state nella Venezia Giulia nell'autunno del 43 e nella primavera del 45, probabilmente fra i 4 e i 5 mila. Allora, le cause che sono dietro a questa ondata di violenza che si scatenò in prevalenza nel 1945, ma che fu anticipata già dopo l'8 settembre del 43, professore? Noi potremmo dirlo così sinteticamente, è l'estensione alla Venezia Giulia, occupata in quel momento dalle truppe jugoslave, delle medesime logiche e dei medesimi comportamenti che erano nati, che erano stati applicati durante la guerra di liberazione, guerra civile jugoslava. Questo arriva fino alla Venezia Giulia e vengono fatte le stesse cose che di 3-4 anni precedenti erano state fatte nel resto della Jugoslavia, con ovviamente alcune varianti. La variante principale è che le vittime nella Venezia Giulia sono prevalentemente italiane. Noi nella nostra ricostruzione poc'anzi, professore, abbiamo ricordato quel che avvenne a partire dagli anni 20 col fascismo, il cosiddetto fascismo di confine. E sì, quindi con l'italianizzazione forzata dei cognomi. Sì, certo. Ecco, in che modo si può dire dal punto di vista storico questa politica del fascismo contribuì a questa escalation della violenza poi dal 43 in poi? Contribuì senz'altro, nel senso che allargò moltissimo la frattura tra i cittadini di sentimenti nazionali sloveni e croati e l'Italia e le istituzioni italiane, il fascismo italiano, quando erano distinguibili in genere l'Italia. Non c'è però un meccanismo diretto di causa ed effetto. Certamente tutto questo creò un clima di fortissimo antagonismo, no? Poi accelerato ulteriormente con i disastri della guerra partigiana, dell'antiguerriglia. Ma attorno a quelle violenze si intersecano due fili. Uno è la reazione al passato. L'altro sono le modalità della fine della guerra in Jugoslavia, della presa del potere da parte del movimento di liberazione a guida comunista, che usa la medesima prassi di eliminazione degli avversari in tutti i territori che nella primavera del 45 vengono liberati dai tedeschi, quindi non solo la Venezia Giulia, ma la Slovenia e la Croazia, dove di vittime ce ne sono fra le 70-80 mila più o meno in questo periodo. Nella Venezia Giulia chiaramente le vittime sono italiani perché? Non perché semplicemente ci stanno, sarebbe poco, ma perché nella sua maggioranza la popolazione italiana è ostile al nuovo potere. Al suo interno ci sono parecchie persone che si identificano sia con lo Stato italiano che col fascismo, questo rappresenta il passato. e in termini più generali perché sono sicuramente contrari a quello che sta succedendo, cioè l'annessione e la costruzione del socialismo. Lei faceva riferimento alla difficoltà di trovare, come dire, una memoria comune, condivisa su quel che non accade. Ci credo affatto che sia possibile trovare una memoria condivisa, perché le memorie sono divise, le memorie sono soggettive. Non so, la memoria di un giovane sloveno che ha visto il padre fucilato dai fascisti, oppure di un giovane istriano che ha visto il padre infoibato, non sono mica interscambiabili, non sono possibili queste operazioni, evidentemente. Le memorie, io credo, vanno sicuramente difese, valorizzate e rispettate nella loro diversità. Il momento poi del superamento non è affidato alle memorie, è affidato ad altre operazioni, alla storia ad esempio, che incrocia diverse fonti, diversi soggetti, diversi soggettivi e cerca di dare una spiegazione generale a tutto tondo. Sono due momenti, credo, molto diversi, anche due responsabilità diverse. Non si può far carico agli eredi della memoria, alle vittime, alle figlie delle vittime, delle responsabilità che non possono assumersi. Noi invece, per noi intendo sia gli storici, ma sia anche le istituzioni, ad esempio, nei diversi paesi, questa responsabilità ce l'abbiamo. La storia e la memoria. Ben ritrovati. Il radiodocumentario che vi proponiamo questa sera ripercorre le vicende che hanno segnato la storia del Tibet. Situato ad un'altitudine di oltre 4.900 metri, il Tibet è detto anche il tetto del mondo e rappresenta il centro tradizionale del buddismo tibetano. Nel 1200 divenne parte dell'impero mongolo e quattro secoli più tardi fu incorporato nella Cina della dinastia Qing. Attualmente, la quasi totalità del territorio è sotto il controllo della Repubblica Popolare Cinese. A farsi portavoce delle istanze di indipendenza del Tibet è il Dalai Lama, massima autorità spirituale e capo del governo tibetano in esilio. In Tibet, un popolo viene oppresso e distrutto in segreto, nel silenzio, da 45 anni. Un paese lontano e misterioso, per lungo tempo inaccessibile e talvolta proibito. Un immenso altopiano a 4.000 metri di altitudine, circondato da deserti e dalle più alte montagne del mondo. Allegria leggera e innocente di una società ancora incontaminata, povera, passionale e senza violenza. La religione è il buddismo. Il potere è di tipo feudale, nelle mani dei monaci e di qualche signore. La città santa, Lhasa, sorge proprio al centro del Tibet, lungo il fiume della felicità. E il palazzo del Potala. Si ha la sensazione che qui nulla sia mutato dai tempi di Gengis Khan. Né gli ori, né i colori dei costumi da cerimonia, né la fierezza tranquilla dei signori. Sembra di essere alla corte del Gran Mogol. Il Tibet viene governato da un reggente. A capo di una gerarchia feudale, il Dalai Lama detiene ogni potere. Egli stesso reincarnazione del precedente Dalai Lama, alla sua morte si è reincarnato a sua volta in un bambino che i monaci ricercano di villaggio in villaggio e che riconosceranno da qualche segno segreto. 1940, riconosciuto 3 anni prima tra i bambini di una povera famiglia di contadini, giunge per la prima volta nel suo palazzo di Lhasa. Prima visita di un dignitario straniero, Sir Basil Gould, ambasciatore di Gran Bretagna. Dall'inizio del secolo la Gran Bretagna, grande potenza imperiale, veglia sull'indipendenza del Tibet, necessaria all'equilibrio geopolitico della regione. Si divide in due grandi regioni, il Tibet interno, a nord, sotto l'influenza cinese, e il Tibet esterno, al centro e al sud, autonomo e indipendente. In un paese 5 volte più grande della Francia, vivono 6 milioni di tibetani, confinanti a nord e a sud con i 2/3 della popolazione mondiale. Oggetti del desiderio delle potenze regionali e più volte invasi, hanno comunque saputo preservare la loro indipendenza culturale e la loro autonomia. In Europa e in Cina è scoppiata la guerra mondiale, ma qui tutto è lontano. La guerra ha cambiato l'equilibrio mondiale. In India, Gandhi ha lanciato il movimento per l'indipendenza. L'impero britannico si prepara alla ritirata. Nel 1947 il viceré delle Indie annuncia ai tibetani che la Gran Bretagna non può più garantire gli accordi precedenti. 1949. In Cina la lunga marcia è finita. Nasce la Repubblica Popolare. Da subito Mao incoraggia i tibetani a liberarsi dal giogo feudale. La minaccia incombe sul giovane Dalai Lama. Avvertiti del pericolo, i monaci decidono con urgenza di farlo ascendere al trono 2 anni prima dell'età prevista. Ha appena compiuto 15 anni. Mentre la cerimonia di investitura è in svolgimento a Lhasa, la storia è in marcia. 3 corpi d'armata cinesi, agli ordini del maresciallo Lin Piao, oltrepassano lo Yangtze Qian e si dirigono verso il Tibet per garantire la sicurezza contro un complotto degli imperialisti americani. I cinesi non si sono mai ritenuti soddisfatti degli accordi pattuiti dalla Gran Bretagna per l'indipendenza. Per averlo già invaso in passato, la Cina considera sempre il Tibet come una sua provincia. Dopo neppure 100 giorni di attesa, Mao fa conoscere le sue intenzioni. Il popolo tibetano ritornerà nella grande famiglia della madre patria. Una spedizione. Bisogna valicare montagne a più di 6.000 metri di altitudine. I cinesi giungono da ogni parte. Impiegano quasi un anno per arrivare alla frontiera del Tibet autonomo. I combattimenti saranno brevi. In un rapporto di 1 a 10, poco armato e senza ordini precisi, il piccolo esercito tibetano viene schiacciato. In quanto alla presenza di un esercito straniero, pretesto per l'intervento, in Tibet sono presenti solo 6 consiglieri e la loro voce radio, Robert Ford. Ma poco prima di essere preso, Ford ha il tempo di avvertire Lhasa del pericolo imminente. Viene immediatamente presa la decisione di allontanare il Dalai Lama per metterlo al riparo da qualche parte vicino alla frontiera indiana. Con lui una parte del tesoro reale, casse di polvere d'oro. Questa pratica è già stata adottata più volte in precedenti invasioni. Da est e da nord le truppe cinesi convergono su Lhasa. A 200 km di distanza sorge Shigatse, seconda città del Tibet e residenza del Panchen Lama. Anche il Panchen Lama è la reincarnazione del suo predecessore. È il numero 2 nella gerarchia del potere politico e religioso. Ha 14 anni e dipende ancora dai consigli, gli intrighi e le ambizioni del suo entourage. Sarà pertanto l'uomo dei comunisti. Scrive a Mao: il Tibet è con voi. 9 mesi dopo, una guarnigione dell'esercito popolare si insedia a Lhasa. 20.000 soldati per 50.000 tibetani. Requisizioni, vessazioni e carestie. Nulla sarà più come prima. La propaganda dipinge un Tibet libero, definendolo un'altra nazione nella grande famiglia della patria cinese. La propaganda mostra il primo incontro tra l'ufficiale politico cinese e il Dalai Lama, tornato finalmente a Lhasa. A Pechino, gli emissari del governo tibetano sono costretti a firmare un accordo su 17 punti, che i cinesi autenticano con un sigillo falsificato del Dalai Lama. Tale accordo prevede la salvaguardia dell'identità culturale e religiosa dei tibetani. L'indipendenza è perduta, ma l'autorità del Dalai Lama resta inalterata. Il Panchen Lama scopre i nuovi rituali, i discorsi interminabili, scopre tutti gli obblighi della collaborazione e la propaganda. In Corea c'è la guerra, ma il Tibet non rappresenta una posta in gioco nella guerra fredda. Abbandonato dall'India e dalle potenze occidentali, al Tibet non resta che trattare con la Cina la sua liberazione pacifica. Ma l'illusione dura poco. 2 anni dopo i cinesi costringono il Dalai Lama a licenziare i suoi principali ministri e consiglieri. Ora dovrà assumersi tutta la responsabilità del governo, ormai isolato, con il Panchen Lama e soprattutto con gli ufficiali politici cinesi. Prima visita a Lhasa del Panchen Lama e primo incontro con il Dalai Lama. Uno ha 17 anni, l'altro 16. L'11 luglio 1954, invitato da Mao a recarsi a Pechino, il Dalai Lama lascia Lhasa, nonostante le suppliche della popolazione. Temono di non vederlo più tornare. È la prima volta che varca i confini del Tibet. Un lungo viaggio, più di 6.000 chilometri. La storia e la memoria. Continua il radiodocumentario dedicato alla lotta per l'indipendenza del Tibet. Sebbene abbia contribuito alla modernizzazione della vita del paese, il governo comunista cinese si è macchiato di terribili crimini contro la popolazione civile tibetana. I benefici del comunismo. Mao in persona annuncia al Dalai Lama le nuove riforme per l'amministrazione del Tibet e la creazione di un comitato preparatorio di cui viene nominato presidente. Al momento di lasciare Pechino e di dire addio al Panchen Lama, il suo soggiorno nella capitale cinese è durato quasi un anno. A Lhasa, senza notizie, lo credono prigioniero. Ma il suo ritorno in jeep e senza apparato rivela il vero scopo del viaggio: fare del Dio Re un funzionario cinese. La stessa sorte tocca al Panchen Lama, in abiti borghesi, ostaggio trattenuto a Pechino. Ora, il seguito del piano cinese. La conquista della casa delle ricchezze dell'Ovest, nome cinese del Tibet. Il primo passo prevede la realizzazione di 2.500 chilometri di strade strategiche fino alla frontiera indiana. Le prime ferite del modernismo in una natura particolarmente ostile. Le nuove strade sono delle brecce nei muri della fortezza tibetana, così a lungo protetta dalle montagne più alte del mondo. Arriva l'elettricità, grazie a Mao. Con i libri sottratti ai monasteri, viene bruciato il passato. La strada tra Pechino e Lhasa è ormai aperta. Nel 1956 il Dalai Lama si reca in India, su invito di Nehru, per i festeggiamenti in onore della nascita di Buddha. Arriva anche il Panchen Lama. Un ritorno alle origini, ma anche un viaggio diplomatico durante il quale il Dalai Lama chiede aiuto contro l'invasione cinese. Ma invano. Mentre in India visitano i principali siti buddisti, nel lontano Tibet sono già cominciate le rivolte nelle province più colpite dall'oppressione cinese. Ultime battute del viaggio del Dalai Lama e del Panchen Lama. Non sanno che i loro destini si separeranno per sempre. Il metodo cinese comincia a scuola e continua nei campi. Dopo la collettivizzazione delle terre e dei latifondi appartenenti ai monasteri e la trasformazione delle tecniche di coltivazione, i tibetani dovranno subire la distruzione dei templi e dei monasteri. E ancora il divieto delle pratiche religiose, gli arresti e le purghe, sempre più frequenti. Dovranno subire la rovina della cultura tradizionale e le prime carestie. Dopo 3 anni di oppressione, la ribellione raggiunge le province del centro. La resistenza si organizza. Gli ultimi grandi monasteri rappresentano un'oasi ancora risparmiata dalla colonizzazione. Il Dalai Lama ha 22 anni. Viene sottoposto agli ultimi esami prima di essere confermato nei suoi attributi religiosi. Il gesto delle mani, un rapido battito, viene ripetuto per fissare domande e risposte. Si sposterà di monastero in monastero. Dalai Lama significa oceano di saggezza. È l'ultima illusione che il Tibet possa vivere liberamente secondo la sua cultura e le sue credenze. Colpi di mano e imboscate. La rivolta continua. La resistenza ha guadagnato terreno fino a Lhasa. L'esercito cinese reprime, ma il Dalai Lama condanna con messaggi espliciti qualunque violenza da una parte e dall'altra. Il Dalai Lama viene avvertito ed è costretto a fuggire. Nella notte del 17 marzo, con indosso un berretto e un uniforme cinese, con una scorta esigua, lascia il palazzo per una destinazione ignota. L'intera popolazione di Lhasa è in rivolta. 20.000 civili tibetani contro 40.000 soldati cinesi. La rivolta dura 3 giorni. La repressione è tanto violenta quanto rapida. la libertà è lontana. Fine della resistenza. Migliaia di morti, più di 10.000 a Lhasa, almeno 100.000 nel resto del paese. Tutto è distrutto. Il Dalai Lama resta al sicuro in montagna. I cinesi lo cercano. Dicono che sia stato rapito dai controrivoluzionari. La fuga dura 3 settimane. A fine marzo si trova in India. Il suo governo è sciolto. A Lhasa regnano lo stato d'assedio e il silenzio. Accolto da Nehru, ha inizio l'esilio del Dalai Lama. Un esilio che dura ancora oggi. Mentre il Dalai Lama denuncia invano al mondo il genocidio e la repressione in atto in Tibet, il Panchen Lama, sempre in ostaggio, occupa l'interim del potere. Riesaminerà più volte la sua collaborazione con i cinesi e 5 anni dopo darà pubblico sostegno al Dalai Lama. Verrà condannato a 15 anni di carcere e poi al soggiorno obbligato a Pechino. Dopo la totale annessione del Tibet, l'esercito cinese prosegue verso sud per ridisegnare le frontiere con l'India, ormai posta sotto la minaccia diretta delle armate cinesi. Il destino del mondo si gioca altrove, a Berlino e a Cuba. La guerra fredda ignora l'India e il Tibet. Una guerra è una disfatta lampo per Nehru. Il dado è tratto. Le province orientali vengono annesse alla Cina. Solo l'antica regione autonoma porta ancora il nome di Tibet, un metodo ben noto all'apartheid. Ma ciò che la propaganda cinese non fa vedere sono i morti, a centinaia di migliaia, morti di stenti e di fame, il terrore, le torture, gli stupri, i monaci crocifissi, bruciati o sepolti vivi, i figli obbligati a uccidere i genitori. I tibetani fuggono attraverso la montagna per sfuggire a tutto questo orrore e alla carestia che da 3 anni devasta l'intero paese. I cinesi dicono di rispettare la nostra cultura tibetana, ma tutti i tibetani sono accusati di essere borghesi. L'inquisizione è ovunque. I cinesi non fanno altro che fabbricare menzogne. Tutto è una menzogna. Più di 100.000 persone raggiungono il Dalai Lama in India. A Dharamsala, ai piedi dell'Himalaya, viene costituito un governo del Tibet in esilio e il 10 marzo 1963 viene proclamata una costituzione democratica. Racconti di violenze e di resistenza. La chiamano Forza Speciale delle Frontiere. È un comando clandestino tibetano formato e addestrato dalla CIA. Il Dalai Lama non condivide questa via. Un messaggio diffuso via radio ricorda a tutti i tibetani che la violenza è contraria ai principi buddisti e che lui vi si oppone. Sono stato molto chiaro fin dall'inizio. Se i tibetani scelgono la violenza per resistere ai cinesi, allora io mi ritiro dalla mia responsabilità. Nel frattempo, le guardie rosse raggiungono il Tibet. Gli ultimi monasteri, gli ultimi templi ancora in piedi, saranno rasi al suolo. La rivoluzione culturale durerà 10 anni. Causerà più di 1 milione di morti. Un tibetano su 6. È la distruzione di una società e della sua cultura. 1972. La guerra fredda si evolve e Nixon si reca a Pechino. Da un anno la Cina è entrata nell'ONU. In Tibet continuano le rivolte, la repressione e le carestie. Ma è necessario aprire uno spiraglio alla frontiera e rendere meno rigida la cortina di bambù. Per la prima volta i cinesi autorizzano il ritorno in visita a una delegazione di tibetani in esilio. La gente aspettava questo momento da tanto tempo. È presente anche la famiglia del Dalai Lama. Giungono dalle regioni più lontane per poterli vedere e toccare. Dopo il genocidio, la colonizzazione di massa. Centinaia di migliaia di coloni cinesi invadono il Tibet. Nel 1980 Lhasa è diventata una città cinese. 10 anni dopo, senza contare le truppe di occupazione, la popolazione cinese supererà la popolazione tibetana, riducendola al rango di minoranza. L'equilibrio mondiale si evolve. Nella guerra fredda entra in gioco la difesa dei diritti dell'uomo. di fronte al Senato americano il Dalai Lama propone la trasformazione del Tibet in zona di pace e l'apertura di un negoziato con la Cina. Sui muri di Lhasa, alcuni manifesti riportano la risposta favorevole del Senato americano. Tre giorni dopo, a migliaia manifestano per l'indipendenza e per l'evacuazione delle truppe cinesi. A Oslo, il Dalai Lama riceve il premio Nobel per la pace. A Pechino, il Panchen Lama è appena deceduto. Cade il muro di Berlino. A Mosca arriva McDonald's e a Lhasa apre un albergo, Holiday Inn. Ma per i tibetani la sola cosa libera è il commercio. L'ordine costituito resta cinese. Invasi da milioni di coloni cinesi, i superstiti della società tibetana, tra la vita e la morte, aspettano di essere salvati. Dalla realizzazione di questo documentario, la repressione non cessa di aumentare. Arresti, esecuzioni, distruzione di monasteri e la deportazione coatta della popolazione tibetana per realizzare progetti titanici, come la deviazione delle acque dello Yangtze verso il fiume Giallo o lo sfruttamento di un importante giacimento di petrolio scoperto a 200 km a nord di Lhasa, che dovrebbe rappresentare un decimo delle riserve mondiali di idrocarburi, o ancora il cantiere della linea ferroviaria che collegherà Pechino con Lhasa. Si sta intensificando anche la politica di pianificazione familiare nei riguardi dei 6 milioni di tibetani. Le donne incinte sono costrette ad abortire tramite iniezione di sostanze sconosciute in Occidente. Contemporaneamente la Cina sta pianificando il trasferimento dai 10 ai 15 milioni di coloni cinesi da qui al 2020. Nel frattempo, il Dalai Lama percorre il mondo per denunciare la politica di occupazione cinese e rifiuta con fermezza la violenza per ritrovare la libertà. Viene ricevuto dalla maggior parte degli esponenti politici dell'Occidente. Propone ai cinesi un vero dialogo, la via di mezzo. Viene invitato al Parlamento europeo in seduta plenaria. Nel frattempo la Cina rifiuta qualunque vero negoziato e l'ingranaggio della violenza paralizza il mondo. In questo gioco ambiguo, la non violenza, questo ultimo barlume, condurrà ugualmente al fallimento. Prima di chiudere, vi segnaliamo che la versione integrale del documentario che avete appena ascoltato andrà in onda su History Channel domani a mezzanotte. Un ringraziamento in redazione a Gloria Guerrera e Daniele Casagrande. La storia e la memoria vi dà appuntamento a sabato prossimo. Buonanotte.